schizzo, aspettando di indietreggiare. Scaricatelo, pompatelo raga. Senti. Piacere, mi presento, CMZ sul pezzo. Sono sempre in mezzo, se cercato senza prezzo. Voglio rispetto e voglio valore da chi non lo fa senza spargere sudore. La sporca verità è ora arrivata. La fine del mondo ve la siete cercata. Non aspettate di indietreggiare, ci pensa schizzo a mandarvi a cagare. Raga, facce, siamo noi brutte bestie. Alla fine anche voi ascoltate facce oneste. Chi come noi si cela in una sporca verità aspetta di indietreggiare in un mare di banalità. E lo dico ai froci, io non faccio rap su questa track, io sono rap, capito? Se giocassano mi pompasse dalla tomba, direbbe che le noche dure sono una bomba. Aspettando di indietreggiare, non scherzate mai col fuoco.